9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 5 marzo da Oscar Giannino, la versione di Oscar. Anche oggi, per qualche giorno ancora, inizia e chiude con i Doors. Dico per qualche giorno ancora non perché abbiamo preso la decisione, ma perché, come sapete, lo ricordo a tutti, abbiamo aperto un sondaggio al quale potete dare la vostra opinione, rispondere se continuare o meno con i Doors, che avevo usato da molti mesi del 2011 per segnalare il grande rischio dell'esplosione dell'euroarea. E se voi siete invece dell'idea che continuare a tenere aperto questo faro sul rischio sia sbagliato, perché il peggio è alle spalle, perché con il governo Monti, con il fiscal compact europeo, senza sapere se in realtà c'è la fusione con l'aumento della dotazione dell'SM e dell'FSF, comunque se voi ritenete che bisogna essere più positivi, allora andate sul sito della radio, rispondete al sondaggio. Ricordo a tutti che il sito è www.radio24.ilsole24ore.com, lì trovate un sondaggio che vi chiede: siete d'accordo con tornare con i Doors oppure no? E poi c'è anche una terza ipotesi aperta: sì, ma cambiamo musica. Nel qual caso, se questa terza scelta fosse quella maggioritaria, tra qualche giorno vi daremo i risultati. Intanto sono già alcune migliaia le risposte. A quel punto apriamo anche un confronto su quale eventualmente musica, in che tonalità soprattutto sia più adeguata a vostro giudizio. Alcuni propongono per esempio la tonalità del re minore, questo nell'SMS, perché non nel sondaggio non lo trovate. Beh, il re minore, siccome è la tonalità della morte nella musica, sembrerebbe troppo, a dire la verità. Però insomma, questo per dire, perché ci sono ancora i Doors, ve lo ripeto ancora una volta, un piccolo segnale è che è vero che gli spread italiani scendono, ma scendono perché i compratori nelle aste di titoli del debito pubblico sono le banche italiane, grazie alle aste di liquidità gennaio e quella di fine febbraio, a cui le banche italiane hanno raccolto centinaia di miliardi di euro. E però siamo a ritmi di 28 miliardi di euro di acquisti da parte delle banche italiane al mese, perché questo è stato quello che è avvenuto a gennaio. Voi capite bene che se sono le banche italiane a doversi sobbarcare ad acquisti che quest'anno saranno più di 20 punti di PIL di emissione del debito pubblico, poi non ci possiamo lamentare se le banche poi in realtà continuano alla restrizione di credito verso famiglie e verso imprese. Questo per dire solo che ci sono tanti punti che a mio giudizio restano molto aperti, e quindi io per questo, per il momento, scelgo ancora i Doors, ma mi piegherò alle vostre opinioni, come è giusto che faccia sempre il conduttore pro tempore di una trasmissione, perché i veri padroni siete voi, gli ascoltatori. Il tema di oggi, lo avete sentito dal lancio, è un tema in cui ci portiamo un po' avanti, perché noi parleremo dell'anniversario del dramma che avvenne a Fukushima, la centrale Daiichi, con i 6 reattori nucleari in Giappone, per lo tsunami, per il sisma e per la grande onda di marea di 12-13 metri che colpì ovviamente le coste giapponesi e quindi travolse gli impianti di sicurezza, gli impianti di refrigerazione dei reattori della centrale di Fukushima, una centrale anzianotta, un General Electric progetto 62-63 come anni. C'erano 3 reattori in funzione, 3 non erano in funzione. Tutto quello che è successo un anno dopo, anche se l'anniversario è l'11 marzo, noi ci portiamo avanti perché è giusto tenere sempre aperto, come è sempre stato aperto, il dibattito su quell'incidente, sulle sue conseguenze ambientali, sulla svolta che ha determinato nelle politiche energetiche di paesi mondiali. Io prima di presentarvi gli ospiti e di sentire le loro opinioni, ricordo a tutti che stiamo parlando di un evento il cui impatto sulla popolazione giapponese è stato, tra vittime accertate e ancora oggi tra dispersi, che a distanza di un anno bisogna considerare ragionevolmente purtroppo deceduti, il totale delle vittime dello tsunami sulle coste giapponesi ha superato le 19.000 vittime. Ce ne sono ancora 3.500 di queste 19.000 che sono considerati solo dispersi, ma ripeto, è passato un anno, quindi un bilancio terribile dal punto di vista del colpo sulla popolazione costiera giapponese. Stiamo parlando di province nelle quali vi erano molti stabilimenti e grandi concentrazioni industriali. Abbiamo parlato più volte del fatto che, per esempio, l'impatto su Toyota, quello che era fino a un anno e mezzo fa il primo gruppo automobilistico mondiale, è stato tale da fargli perdere due posizioni nel mondo, perché per molti mesi gli stabilimenti sono rimasti fermi e si è interrotta la catena di forniture. Ma naturalmente il problema di questi 19.000 morti è stato quasi di passare in seconda battuta, come era inevitabile di fronte al rischio del nucleare, che invece ha scatenato tutto quello che ha scatenato nel mondo dall'indomani e nelle concitate settimane in cui poi l'agenzia nucleare da una parte, dall'altra l'agenzia di sicurezza nucleare giapponese, poi la TEPCO, l'azienda giapponese che gestiva le centrali e che ha perso 6 miliardi di dollari l'anno scorso, è praticamente in ginocchio. Nei giorni e nelle settimane successive hanno preoccupato tutti, perché da una parte c'era la questione della una informazione che potesse considerarsi attendibile su quello che stava succedendo, e sotto gli occhi di tutti succedeva nelle settimane successive. Ricordate, una delle tre centrali per i problemi di mancata refrigerazione andò in condizione per cui la pressione interna portò a scoperchiare la copertura della centrale. Piano piano cose analoghe avvennero non solo in tutti e tre i reattori in funzione, ma anche al numero 4, che non era in funzione. Iniziarono a emergere i problemi delle vasche di contenimento del carburante, combustibile fissile esausto, che a propria volta generarono problemi. La questione nelle settimane successive divenne sempre più quella dell'attendibilità del rilascio di radionuclidi in mare, visto che poi fu usata l'acqua marina per la refrigerazione dopo l'insuccesso degli impianti aggiuntivi portati dalle forze di sicurezza nucleare giapponesi nell'impianto. Dopodiché arrivammo alle conseguenze che le diverse paesi avanzati adottarono sul proprio mix di generazione energetica ed elettrica. Io ricordo a tutti, e non voglio essere polemico, che a distanza di un anno di morti accertate per contaminazione nucleare, per assorbimento di radionuclidi nelle settimane successive, siamo ancora a una quota zero che bisogna prendere con beneficio di inventario. È ovvio che le conseguenze sugli operatori di sicurezza che hanno operato e continuano a operare nella centrale bisogna vedere nel tempo, però siamo a zero vittime accertate. Nel frattempo ricordo che moltissimi paesi, 26, non hanno cambiato idea sulle proprie centrali, tra questo gli Stati Uniti, la Francia, dopo stress test sulle loro centrali hanno detto noi andiamo avanti con i nostri programmi, ma tanti altri paesi, noi tra questo con il referendum che poi avvenne in Italia nell'aprile successivo, abbiamo deciso lo stop definitivo di un nucleare nel quale ci stavamo riaddentrando dopo tanti anni di recupero. La Germania, paese leader europeo, adottò subito un fermo di sicurezza e nel giro di un paio di mesi Angela Merkel prese poi la decisione, che è stata confermata dal Parlamento, dal Bundestag tedesco, di tenere chiusi subito 7 impianti nucleari e di avviare poi un programma di chiusura accelerata rispetto alla decisione assunta solo l'anno prima in Germania, invece, di riallungare il ciclo operativo delle centrali in esercizio, per il quale la Germania si è data come uscita totale, finale del nucleare il 2022. Ecco, il 2022. A oggi com'è la condizione? In Germania Der Spiegel la scorsa settimana ha fatto un servizio molto ampio sul fatto che gli energivori tedeschi, sapete che la Germania è il paese a più alta vocazione manifatturiera prima dell'Italia nel gruppo europeo, iniziano a lamentare i troppo alti costi dell'energia per effetto intanto dello stop dei primi 7 impianti, perché la Germania ha scoperto nel frattempo che l'uscita dal nucleare comporterà non solo 10 più 10 gigawatt, questa è stata la valutazione fatta da Angela Merkel al Bundestag, di produzione aggiuntiva da rinnovabili rispetto alle previsioni, e già la Germania era molto più avanti di noi da questo punto di vista, ma il problema è che la Germania ha scoperto di avere bisogno di molti miliardi di euro in più per investimenti sulla rete, perché il riequilibrio della rete di trasporto ad alta tensione per rendere disponibile energie rinnovabili che si fanno per esempio sul mare, nel Baltico, per portarli invece a rendere sempre disponibili agli energivori manifatturieri e dell'acciaio nelle zone più più alta industrializzazione, più a sud, questo comporta molti interventi sulla rete. In parole povere, hanno iniziato a chiudere alcuni impianti siderurgici in Germania, dando la colpa all'apprezzamento energetico. E Der Spiegel ha pubblicato una tabella comparata nella quale, dopo il più alto impatto per la produzione di energia elettrica, il paese che pagherà l'onere maggiore alla decisione di uscita nucleare è la Danimarca, ma stiamo parlando di un paese piccolo rispetto quindi a un'incidenza molto elevata che avevano gli impianti nucleari. Ecco, dopo la Danimarca c'è l'Italia, la stima di Der Spiegel, una stima spannometrica, e di un aumento in 20 anni di un 16,5% in più, e c'è molto da discutere su come naturalmente è stata fatta quella stima. Dopodiché però il terzo paese per onere aggiuntivo è la Germania, e Der Spiegel, che pure non è sospettabile di essere, non è certo un settimanale di destra, ha iniziato a raccogliere voci dicendo: ma siamo così sicuri che dopo le elezioni nel prossimo aprile 2013 in Germania non si debba riconsiderare questa scelta, visto che nel frattempo molti altri paesi non l'hanno seguita? Il Giappone invece, e qui ho concluso la mia introduzione, in Giappone siamo a un punto che delle 54 impianti che erano attivi nucleare il giorno terribile dell'11 marzo dell'anno scorso, 52 sono oggi chiusi, non sono attivi. L'impatto di tutto questo è stato naturalmente un ricalcolo generale sui costi energetici giapponesi ci sarà nei prossimi decenni. Anche a questo è collegato un andamento dei prezzi energetici, petrolio e gas, visto che sarà soprattutto il gas ciò a cui dovrà ricorrere il Giappone, che ha avuto nell'anno alle nostre spalle andamenti un po' diversi dalle attese. Negli ultimi 2 mesi noi siamo a un avvaloramento anche del barile, in cui però la più forte incidenza non è tanto questa, a essere concreti, ma è il sospetto, il calcolo che il mercato inizia a fare di operazioni militari sull'impianto atomico iraniano, quindi della tensione medio orientale, ed è questo che porta il Brent, oramai l'ha riportato in su verso i $125 al barile. Ecco, questo è il quadro. Oggi tentiamo con i nostri ospiti di ragionare: un anno di Fukushima, che cosa abbiamo imparato? Tenere presente però qual è l'impatto che sulle economie dei paesi avanzati hanno le decisioni diverse che sono state assunte. C'è chi ha deciso di andare avanti con più sicurezza, c'è chi ha deciso di fermarsi, c'è chi ha deciso di non inoltrarsi come noi. Ecco, iniziamo con presentare gli ospiti che abbiamo. È con noi qua in studio Carlo Stagnaro, che è il direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. E abbiamo collegato con noi Mario Tozzi, conosciutissimo geologo, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, scrive sulla Stampa, e anche l'anno scorso lo sentimmo nelle trasmissioni che dedicammo a Fukushima. Io ricordo a tutti che, essendo stato il primo che a distanza di poche ore dall'evento ha fatto una valutazione di impatto sull'impianto e uscì sul Messaggero, la cosa poi nei mesi successivi mi valse oltre 70.000 tra mail, lettere eccetera eccetera, tutte molto polemiche. A distanza di un anno immagino che possiamo ragionare, come già facemmo con Tozzi, Realace e tanti altri nelle settimane successive, con assoluta freddezza su questa cosa. Comincerei proprio con Mario Tozzi. Ecco, se dovessi dire a distanza di un anno rispetto ad allora, se possiamo dirci soddisfatti innanzitutto dell'attendibilità delle informazioni, primo; secondo, la tua valutazione su questo diverso impatto delle scelte energetiche nei paesi avanzati assunte nei mesi successivi e oggi a un anno di distanza, che cosa diresti ai nostri ascoltatori? La prima cosa è che dopo un iniziale periodo di reticenza, quello l'abbiamo visto, ma succede in tutti gli incidenti nucleari, ahimè, è successo dappertutto, non parliamo poi di Chernobyl, lì addirittura si parlava di cercare di non far traperare la notizia stessa, adesso abbiamo delle informazioni attendibili. Sono informazioni peraltro che chiamano in causa molto direttamente le autorità giapponesi, insomma, perché lì si è capito che le autorità e gli operatori dell'impianto agivano sulla base di assunzioni che insomma erano errate, diciamo, perché non avevano considerato la probabilità di un incidente grave, ignoravano proprio i rischi. E abbiamo anche scoperto che il Giappone non è stato tanto capace di fronteggiare un disastro di così grande entità, laddove è molto capace di fronteggiare un terremoto, perché per il terremoto di magnitudo 9 Richter ha avuto tutto sommato perdite diciamo limitate. Va detto che non ci sono morti per l'aspetto specifico della radiazione, ancora non lo possiamo sapere, ma tanto per dirne una, ci sono stati diversi ospedali evacuati talmente tanto in fretta perché infermieri e medici avevano dato le dimissioni, invece lì devi presidiare l'ospedale, che in un caso specifico su 440 pazienti, 45, era una casa per anziani ospedale, sono morti perché non sono stati più assistiti. Ora non è direttamente dipeso dalle radiazioni, ma insomma. Ora, per quanto riguarda invece le scelte energetiche, ma si è detto che noi abbiamo operato... aspetta, io ricordo a tutti che a oggi la zona di sicurezza evacuata è ancora di 20 km di raggio, questa è stata la decisione assunta poi nelle settimane successive, c'è una zona più ampia che si estende per altre 20 miglia nella quale il governo disse ai residenti fate voi, non c'è l'obbligo, e quindi il risultato è che in quella zona chi ha potuto o ha voluto se n'è andato, i più sono rimasti, a dire la verità, come testimoniano anche gli inviati che da tutto il mondo hanno continuato a raccontare e racconteranno in questa settimana le cose come stanno. Quindi c'è una zona di sicurezza di 20 km. Prego. Finisco subito su questa prima parte, perché va anche detto che il principio del confinamento, no? Cioè quando tu sei in uno stato incidente di questo tipo ti devi chiudere in casa sostanzialmente per evitare l'esposizione alla radiazione. Abbiamo scoperto qui che non funziona per niente, perché tu puoi confinare qualcuno per non so, per un giorno o due, non per 10 giorni, lì sono stati 10 giorni quelli necessari per il massiccio rilascio di radiazioni, perché diciamo si dissipasse. Ma invece passando alle questioni energetiche, beh, quello che vediamo è che abbiamo deciso sull'onda dell'emotività, e questo naturalmente cioè, è entrato parecchio io questo, però non vedo perché questo argomento non dovrebbe essere un argomento da considerarsi, visto che consideriamo questo argomento in tante altre occasioni della nostra conduzione di vita sociale o civile. La Germania probabilmente ripenserà la sua scelta, io non lo so, dipenderà pure dalla maggioranza politica che uscirà dalle elezioni, perché se questa maggioranza contempererà la presenza dei Grünen, dei Verdi, beh, non credo che la potrà ridiscutere tanto, e ci sarà semplicemente un'accelerazione dei processi per cui la sostituzione del mix energetico non comprende l'energia nucleare. Io credo che questo si possa ancora fare. Abbiamo visto che soprattutto per i consumi domestici, che sono circa un terzo dei consumi totali, funziona molto bene per abbatterli anche del 50%, dunque una bella fetta che ti permette di muoverti ancora sui trasporti, sugli altri consumi, considerando questa riserva, si possono abbattere semplicemente ristrutturando per bene, coibentando per bene e usando, in quel caso davvero si può, le energie rinnovabili. Certo, non si può fare col solare andare la Fiat, per esempio, questo lo sappiamo tutti, però esiste questo terzo di consumi sui quali possiamo invece agire, che nel bilancio energetico globale funzionano alla stessa maniera, nel senso che sono comunque consumi che evitiamo e dunque possiamo dedicare i residui delle energie da combustibile fossile che ci abbiamo per fare questa industria pesante, chiamiamola così impropriamente, ma sul resto possiamo cominciare ad articolarci diversamente. Io credo in un mix energetico molto più articolato del passato, anche se sono scettico nella sostituzione totale del fossile, anche l'uranio lo è, un combustibile geologico pure lui, con questi altri sistemi. Allora, si è aggiunto anche, e lo saluto, Marco Ricotti, che è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Era membro, non so neanche dire se è stato membro, perché in teoria era impredicato per diventare membro dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, che era in atto di essere costituita, poi non si è mai riunita ed è stata sciolta, quindi non è neanche ex membro, cioè non so come considerarlo, però era stato considerato coi titoli giusti per stare in questa autorità. Ricotti, possiamo, prima di andare in pubblicità, in un minuto iniziare da un solo punto la sua valutazione su tenuta a impianto ed emotività a un anno di distanza? Ma innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno a tutti i suoi ospiti e gli ascoltatori. Sì, sono stato membro nominato ma mai effettivamente operativo. Io parto da una valutazione che non è mia, ma è degli esperti dell'IAEA che hanno fatto visita all'impianto alcuni mesi fa e hanno analizzato la situazione e sono giunti a 4 valutazioni preliminari, 2 negative e 2 positive. La prima è che lo tsunami è stato effettivamente sottostimato come rischio. La seconda è che ci sono effettivamente state deficienze nella catena di controllo comando e nelle regole, nell'organizzazione delle responsabilità del controllo nelle strutture giapponesi, ma ce ne sono anche due positive. La prima, una grandissima capacità di gestire l'emergenza da parte dei giapponesi. Sono riusciti ad evacuare centinaia di migliaia di persone senza gravi danni. Io non so immaginarmi un simile evento, cosa avrebbe potuto comportare in Italia. E il secondo aspetto positivo, una dedizione assoluta degli operatori che hanno gestito l'emergenza in condizioni veramente limite. Direi che queste valutazioni danno un quadro abbastanza corretto della situazione. Ed eccoci tornati in studio. Questo lunedì 5 marzo ci stiamo occupando del bilancio di ciò che è avvenuto l'11 marzo, tra una settimana, ma insomma ci stiamo portando avanti con lo tsunami che colpì oltre le coste giapponesi, soprattutto la centrale con i 6 reattori di Fukushima. Abbiamo sentito le prime opinioni di Mario Tozzi e abbiamo sentito la prima opinione con il bilancio in 4 punti dell'Agenzia Atomica Internazionale a distanza di mesi da quello che avvenne a quella centrale, che ci stava riportando Marco Ricotti, che è l'impiante nucleare al Politecnico di Milano. Ecco, Ricotti, dal punto di vista della divergente strada assunta e mantenuta nel tempo da diversi grandi paesi che hanno una percentuale di produzione di energia elettrica più o meno elevata, ma comunque consistente, da impianti nucleari, la sua valutazione tecnica è che le misure di stress test, che hanno consentito poi di dire ai francesi da una parte, agli americani dall'altra, ma tanti altri paesi, qui stiamo parlando di India, 26 paesi che hanno deciso di continuare ad andare avanti, dal punto di vista tecnico, gli effetti di quello che è avvenuto e di ciò che poi l'agenzia internazionale, la comunità scientifica ha capito del colpo di maglio che si è abbattuto su quella centrale e sulla scarsa tenuta di impianti ridondanti di refrigerazione del combustibile, sono tali da consentirci di credere che quei paesi non stanno facendo sciocchezze e invece procedono in sicurezza, perché il bilancio in effetti non è la chiusura del nucleare ma è un mantenimento con più sicurezza, oppure no? Che pensa? Innanzitutto confermo gli stress test europei, le verifiche statunitensi e gli stress test giapponesi stanno confermando nella sostanza il buon livello di sicurezza dei reattori attualmente in esercizio. Un salto ulteriore in fase di sicurezza lo si avrà con la costruzione dei reattori di nuova generazione. Quindi direi che le valutazioni stanno convergendo su questi aspetti positivi. Devo dire che lei ha toccato un punto che reputo fondamentale. Io credo che non potremo non andare verso un qualche cosa che assomiglia a un'agenzia di sicurezza internazionale, non parlo dell'IAEA, ma di un'agenzia di sicurezza che possa effettivamente obbligare e costringere alcuni paesi a seguire alcune best practices, migliori pratiche a livello di safety. Se non un'agenzia di sicurezza internazionale, almeno un'agenzia di sicurezza europea. E credo che gli stress test che l'Europa sta effettuando siano da utilizzare per metterci sulla buona strada in questa direzione. L'obiettivo è garantire altissimi standard di sicurezza ovunque, anche in quei paesi che si stanno affacciando e hanno una storia meno lunga di esperienza nucleare. Lei ha citato la Cina, l'India, ma io aggiungerei anche la Polonia, la Lituania, la Turchia, la Bielorussia, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Giordania, il Vietnam, il Pakistan, l'Indonesia, l'Indonesia, la Malesia, la Mongolia, se vuole le do i numeri. Come no? Stiamo parlando di decine di reattori che prossimamente verranno costruiti, quindi è fondamentale che tutti seguano i massimi standard di sicurezza. E naturalmente molti di questi paesi non hanno quella che poi si è considerata anche inadeguata, ma non hanno minimamente l'apertura e la trasparenza che comunque un paese democratico dal secondo dopoguerra come il Giappone ha, ed è stata considerata inadeguata, figuriamoci poi molti di questi altri paesi. Quindi questa idea di un'agenzia internazionale di sicurezza per gli standard è intanto uno dei portati di questa crisi di post-Fukushima. Stagnaro, ricordo che noi siamo un paese in cui la componente estera della nostra esposizione estera annuale, bilancio dei pagamenti, insomma parte corrente, quei 5-6 punti di PIL si devono praticamente solo alla componente energetica. Noi abbiamo importato per 66-67 miliardi nel bilancio di quello, il deficit che abbiamo realizzato nel 2011 e di queste proporzioni, ed equivale in buona sostanza al deficit di parte corrente della bilancia dei pagamenti italiani. Quindi se non avessimo l'energia noi saremmo al pareggio, perché per il resto sul commercio manifatturiero siamo invece in attivo. È ovvio che questa cosa si deve al mix energetico che ci siamo dati. Noi non avevamo nucleare, la prospettiva nella quale siamo con le rinnovabili, ce ne siamo occupati tante volte, è una prospettiva che ha visto la Germania in queste ultime settimane proprio rimodificare al ribasso gli incentivi alle rinnovabili. Loro avevano sostegni molto alti quando noi non li avevamo, siamo arrivati dopo, ne abbiamo dati molto forti, la Germania nel frattempo adesso scende, dopo che per mesi c'è stato un problema interno al governo tedesco, perché tra il ministro dell'economia dell'FDP che era per abbatterli gli incentivi e invece poi il ministro dell'ambiente della CDU che era per mantenerli, per mesi la Germania non ha saputo che strada prendere, adesso ha deciso di riconsiderarli al ribasso. Dall'altra parte gli energivori dicono: ma come li riconsiderate al ribasso? Noi già non ce la facciamo adesso. Insomma, è un quadro un po' complicato quello di come si fa e con quanti incentivi alle rinnovabili sostituire componenti di produzione così forte nei paesi che avevano nucleare e per noi partendo dal deficit. Ecco, a un anno di distanza sta che pensa? Impatto sugli impianti, impatto su un'economia come la nostra sul nucleare, la lezione di Fukushima qual è? Beh, Fukushima dà tante lezioni evidentemente, le più importanti sono lezioni di natura tecnica relativa alla progettazione degli impianti nucleari e al tipo di rischi che devono essere considerati nel momento in cui le misure di sicurezza vengono dimensionate. Quello che tutti hanno messo in evidenza è il fatto che se il rischio tsunami fosse stato preso in adeguata considerazione, a Fukushima non sarebbe successo niente, al di là di uno tsunami che ha comunque ammazzato migliaia e migliaia di persone, cosa che non dobbiamo dimenticare. Devo dire è un po' paradossale, apro una brevissima parentesi, il fatto che noi parliamo dell'incidente di Fukushima e ci ricordiamo l'incidente di Fukushima in relazione alla tragedia nucleare, quasi dimenticando i 19.000 morti i 19.000 morti dello tsunami che ci sarebbero stati a prescindere. E chiudo qui la parentesi. L'incidente di Fukushima ci dà anche una serie di altre indicazioni relative al modo in cui una tecnologia come il nucleare, ma vorrei dire qualunque tecnologia che comporta dei rischi di larga scala, deve essere calata nel contesto normativo e regolatorio. Parte dei problemi che si sono verificati derivano molto probabilmente, o almeno così hanno evidenziato i rapporti delle autorità giapponesi, derivano dall'opacità nella regolazione, che deriva dal fatto che l'Agenzia di Sicurezza Nazionale giapponese non è un'autorità indipendente, ma è un soggetto legato a nomine, a procedure governative, derivano dal fatto che la società che controllava, che eserciva la centrale, cioè TEPCO, ha di fatto importanti addentellati col governo, e che tutto questo ha consentito ha consentito il formarsi di importanti attriti che hanno determinato tra l'altro la scarsità delle informazioni, l'opacità sulle informazioni anche mentre l'incidente era in atto, e ha consentito alla società di rimandare una serie di interventi di messa in sicurezza che invece tutte le istituzioni internazionali, a partire dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, suggerivano e chiedevano riguardo alla centrale di Fukushima. Questo, come dire, in relazione all'incidente in sé e alle sue lezioni. Poi c'è un'indicazione più ampia ed è evidentemente che una tecnologia come il nucleare, che presenta dei rischi peculiari per la scala su cui si ripercuotono, seppure ancora una volta, se guardiamo al caso giapponese, questi rischi arrivino a valle di un terremoto di grado 9 e di uno tsunami, una tecnologia come il nucleare richiede un'attenta regolazione tecnica di sicurezza e richiede soprattutto un investimento importante nella creazione di consenso. In un paese come il nostro, ma in qualunque paese occidentale, oggi il principale ostacolo alla realizzazione di nuove centrali nucleari è la creazione del consenso e l'opposizione delle popolazioni locali. Le popolazioni locali devono essere convinte, da un lato, che si possono fidare, dall'altro che la loro sicurezza non è compromessa e dall'altro lato ancora che chi è incaricato di sorvegliare, di monitorare e controllare lo può fare avendo i mezzi, le risorse e l'autonomia necessarie. Tutto questo implica che non c'è più spazio per il nucleare nel futuro? Non necessariamente. Diversi paesi hanno scelto di restituire vigore al nucleare. Negli Stati Uniti è stata appena autorizzata è stato appena autorizzato un nuovo impianto in Georgia dopo più di 20 anni in cui nessun nuovo progetto veniva preso in considerazione. Naturalmente tutto va messo nella giusta prospettiva. Deve esserci un'attenta regolazione, deve esserci una regolazione di sicurezza molto forte, e dopodiché il rischio economico, finanziario, di cui forse parleremo più tardi, connesso a un investimento nucleare, deve stare in capo a chi lo effettua. Cioè bisogna sgombrare il campo dal sospetto che qualora governi, l'investimento vada male, certo, sarà il contribuente a richiamare. Eccoci qua tornati con la notte in studio dopo il traffico, in questo 5 marzo dedicato a una specie di inizio di anniversario che vedrete nei prossimi giorni di spiegarsi inevitabilmente sulle informazioni in Italia, ma tutto il mondo, a un anno dal colpo di maglio, lo tsunami, il sisma che si abbatté sulla centrale di Fukushima. Faccio una domanda a tutti e tre chiedendo di essere sintetici nella risposta. Comincio con Mario Tozzi. Il fatto che il consenso, un punto toccato da Carlo Stagnaro adesso, il consenso in Italia sul nucleare è diventato sempre più problematico. In realtà abbiamo visto come consenso non ci fosse. C'è stato un pronunciamento maggioritario e nei sondaggi l'opinione pubblica si era riavvicinata a una soglia del 50% solo poco prima, in realtà, sul nucleare, poco prima che poi avvenne Fukushima. E chiedo a Tozzi, il fatto che l'opinione pubblica italiana su questo tema sia sempre stata pronunciatamente più sfavorevole di quella di altri grandi paesi avanzati, europei, francesi, americani, eccetera, eccetera, a cosa si deve? Al fatto che qui l'ambientalismo ha preso più piede che altrove? Oppure, posso dire, forse anche una minor componente di numeri comparati, non lo so, però chiedo a tutti la stessa cosa in maniera che ciascuno possa dare una risposta. Tozzi, che dice? Ma tanto per cominciare, quella è stata la prima battaglia contro il nucleare, quella dell'altro referendum, è stata una delle poche in cui alla testa del movimento ambientalista c'era una forte radice scientifica. In quel caso lì i professori di fisica che c'erano, ecco, dettero molta credibilità a quel movimento, diciamo quello di Montalto di Castro, ecco, quello del primo referendum. E questo secondo me lì ha dato un clisma molto positivo, diciamo almeno di attendibilità scientifica. Complessivamente devo dire però che un po' dipende anche dal fatto che gli italiani non tanto bene si confrontano con le materie scientifiche, diciamolo, me stesso, tutti, senza offendere nessuno, voglio dire, noi. L'elemento emotivo in questo secondo caso, essendo avvenuto un incidente proprio poco prima, anche se il referendum era stato chiesto in tempi diciamo meno sospetti, questo ha pesato naturalmente moltissimo. Aggiungerei anche che nel caso specifico hanno cominciato a prendere piede anche delle alternative, mentre all'inizio nel primo referendum l'alternativa al nucleare non è che fosse chiarissima, perché comunque di petrolio ce n'era ancora, non si discuteva di fine del petrolio eccetera. Adesso invece si può forse credere un po' di più che qualche piccola cosa in più si possa fare in alternativa. Ricotti, dal suo punto di vista, come mai gli italiani sono stati in testa a questo movimento del dire no? Tre motivi. Il primo, confermo quello che diceva Tozzi, c'è una ignoranza diffusa di tematiche tecnologiche e scientifiche. Secondo motivo, questa ignoranza non è certamente aiutata nel suo superamento dai media, ma questo sconta, credo sia il motivo vero, una mancanza di approccio bipartisan reale, condiviso e di lungo termine su scelte politiche impegnative ma strategiche per il Paese. Da ultimo, sembrerà paradossale, ma il motivo è che noi non abbiamo il nucleare, perché in tutti gli altri paesi la percentuale maggiore di cittadini favorevoli al nucleare sono quelli che vivono e abitano vicino alle centrali, per due motivi. Il primo, perché ovviamente ne hanno un ritorno in termini di lavoro, economico, di economia, di benessere, ma secondo, perché è più facile per loro conoscere di cosa si tratta effettivamente. Stagnaro, che dice? Io credo che una tecnologia come il nucleare può funzionare dal punto di vista del consenso dove c'è fiducia nelle istituzioni che sono incaricate di garantire la sicurezza. In Italia questa fiducia non c'è, e una vicenda come quella dell'agenzia di sicurezza, che è nata tardi e male ed è morta prima di vedere la luce, in qualche maniera ha dato ragione a chi la fiducia non ce l'aveva. Allora, Tozzi, uno dei punti su cui il governo, in teoria ha un grande incarico questo governo, perché è vero che è nato per il disastro dell'euro da fronteggiare, eccetera eccetera, però è il governo che in teoria dovrebbe stendere il piano energetico nazionale, che manca da molti anni, eccetera, eccetera, e a maggior ragione, viste le conseguenze della scelta assunta nelle urne, visto che poi, insomma, il barile sta a 125 e probabilmente il problema Iran non è di quelli che spariscono in poche settimane, e questo piano energetico diventa ancor più fondamentale, dovrebbe essere una priorità nazionale, visto che è la componente energetica quella del nostro passivo sull'estero anno per anno. Però questa priorità non mi sembra che ci sia più. Tozzi, che impressione ha? Ah, beh, la stessa impressione, mi pare che non ci sia ormai dagli anni '80 una presa in considerazione. Si richiedono addirittura dei piani energetici regionali e qualcuno li stipula pure, anche se non in questa forma così ufficiale, ma non c'è invece un'articolazione nazionale, non c'è nemmeno una linea guida nazionale che abbia questo senso. Io in questo sono molto critico. Va detto anche che oggi, laddove si dovesse prendere le mosse per un piano energetico nazionale, le cose però sono molto cambiate rispetto a all'ultimo nostro piano, chiamiamolo così, quello degli anni '80, per intenderci il tempo appunto delle centrali nucleari, eccetera. Perché c'è un elemento di grandissima differenza rispetto al passato. Nonostante i consumi industriali crescano, nonostante tutto quello che voi più bravi di me vi poteste dire, però c'è una parte dell'energia che ormai non sarà più possibile accentrare, cioè che dovrà essere decentrata. Quindi il decentramento energetico sarà una cosa importantissima, soprattutto per quel terzo di consumi domestici che ricordavo all'inizio. È lì che dobbiamo, secondo me, possiamo fare ancora qualcosa, altrimenti rischiamo, e chiudo, un paese che impegna 100.000 megawatt e ne consuma di media 40.000 e di picco 50.000. Non può essere. No, ma questo è un problema fondamentale per quel terzo. E poi l'autoproduzione naturalmente non funziona per le altre componenti, tant'è che per questo io sempre dicevo ci vuole il nucleare. E ci vogliono anche le rinnovabili, mica erano in alternativa. Stagnaro, da questo punto di vista, come si spiega che il governo questa roba non è una priorità più nazionale? No, l'energia dovrebbe essere una priorità e non lo è. Sulla faccenda invece del piano della pianificazione io dico meno male. Da quando noi non abbiamo più un piano energetico nazionale, la qualità del servizio, per esempio misurata attraverso numero e durata delle interruzioni, è migliorata, la dinamica dei prezzi si è raffreddata nonostante l'aumento dei costi delle commodity energetiche e così via. Noi abbiamo scelto, anche su impulso europeo, di darci un mercato concorrenziale, e in un mercato concorrenziale è il mercato che sceglie in quali tecnologie investire. Il governo deve creare le condizioni perché si possa investire ed eventualmente mettere dei paletti, per esempio sul nucleare. Però faccio un esempio. Per esempio, sul fatto che noi avevamo pianificato, chiamato capitale internazionale a credere molto sulla moltiplicazione dei rigassificatori, no? Poi in realtà sappiamo con quanti problemi, in realtà le realizzazioni concrete operative siano state molto al di sotto dei soldi impegnati, dei progetti e così via. Però non si è visto un governo che, per creare un grid intelligente, un mercato unificato davvero europeo del gas, al quale avremmo tutto da guadagnare, dovremmo giocarci la carta di fare l'hub del sud dell'Europa, come la Germania e quella del nord. Però governi che su questo abbiano picchiato i pugni, perché sono francesi e tedeschi, che a questo punto i tedeschi potrebbero avere una convenienza, però fino a questo momento un governo così, al di là della pianificazione del mix, non si è visto. No, da questo punto di vista in realtà l'attuale governo è quello che ha fatto di più, anche se involontariamente, con la separazione di Snam Rete Gas da Eni. In generale il problema dei rigassificatori, come di ogni altra infrastruttura energetica, incluse le rinnovabili, sta nel percorso amministrativo. Quindi, come dire, il tema non ha a che fare con la pianificazione dell'energia, ma con la riforma delle procedure. Delle procedure, senza le quali qua non c'è certezza né di ritorno, né dei tempi di realizzazione, delle impugnative. Cioè, è il problema delle infrastrutture energetiche come quelle della TAV, a prescindere dal giudizio sulla TAV, perché come sapete io sono di quelli che hanno i dubbi sul costo efficace della TAV, quindi non sono sospettabile di essere nello schieramento di chi dice la TAV bisogna farla a prescindere, ogni opera va fatta su costi-benefici. Ecco, detto questo, Ricotti, c'è anche un piccolo problema aggiuntivo. Noi avevamo, e lo dico non solo perché questa è Radio di Confindustria, 300, anzi insomma, in realtà erano diverse migliaia di imprese che si erano messe in fila credendoci nel nucleare italiano e nelle ricadute che ci sarebbero state. Per loro è stato un addio, per così dire. Effettivamente ci sono poi migliaia di imprese nelle rinnovabili e così via. Dal punto di vista di chi fa il tecnologo e lo scienziato, La promessa che rimanevamo però nella ricerca nucleare italiana è davvero una promessa che è operativa oppure no, secondo lei? Guardi, tira una bruttissima aria, devo dire. No, ha ragione, la survey di Enel per l'avvio del nucleare italiano aveva raccolto l'interesse di oltre 700 aziende. Devo dire che continuano a rimanere alcune industrie, alcune aziende che sono ancora in grado di fare business in questo settore, ovviamente a livello internazionale, e non è poco. Alcune aziende italiane riceveranno a breve degli ordini dai francesi, degli ordini molto importanti. Ci sono appunto le possibili aperture dei mercati in Inghilterra, Regno Unito, in Europa, se proprio non vogliamo spingerci nell'estremo oriente. Quindi io credo che le aziende che sono ancora in grado di far business e avevano investito per qualificare andranno avanti in altri mercati, però la prospettiva insomma è amara. Va bene, io ringrazio Ricotti, Tozzi e Stagnaro. Ripeto, bilancio 19.000 morti dal tsunami, per il momento da radionuclidi della centrale di Fukushima, zero. Riflettiamoci tutti, ma riflettere si fa sempre in tempo. Appuntamento a domani e grazie a voi. Yeah.